faceva protesta, l'hanno presa, l'hanno gonfiato, poi l'hanno ripresa, l'hanno messa dentro e l'hanno rigonfiato. E mo come sta? E come deve stare? Tutto gonfio! Si occupano le università, si occupano le fabbriche, si occupano le chiese. I nostri disoccupati sono 721.000. Rosso è il colore di questo secolo. Ci si ammazza ai quattro punti cardinali. I cardinali viventi sono oggi 133. Ieri eravamo sulla Luna, domani saremo su Marte. E oggi, come ai tempi dell'Inquisizione, il ferro rovente strappa alla carne degli uomini liberi la confessione di colpe non commesse. Ma i giovani gridano nelle piazze, rompono i vetri, prendono le botte. Ci si batte per non combattere, si combatte per non fare più la guerra. I giovani hanno scelto l'amore. E per amore io canto, perché d'amore ho bisogno, da prendere e da dare. Perché ho sulle spalle 5.000 anni di dolori e di rinunce che posso accettare solo in nome dell'amore. E se non sono le tue rinunce a farti cantare, sono quelle degli altri, dei contadini, degli operai, o di quelli che per sottrarsi ad una condizione abietta rinunciano alla loro terra e al loro cielo e si fanno i migranti. Treno lascia la stazione, partiamo in tanti per necessità, siamo i soldati dell'emigrazione e disarmati andiamo a lavorare. Disarmati andiamo a lavorare per una vita o per una stagione. Andiamo a Londra, a Parigi o al Canada, ma nelle nostre valigie di cartone c'è tanta fame e buona volontà. C'è tanta fame e buona volontà. Qui il cielo è grigio anche il padrone, grigia è la lingua e la mentalità. Guardando noi si parla di invasione, noi siamo qui soltanto a faticare. Noi siamo qui soltanto a faticare. Come lontano il nostro meridione, ogni giornata qui è un'eternità. Ma basterà il profumo di un limone a ricordarci che non durerà. Ma basterà il profumo di un limone a ricordarci che non durerà. Dove passiamo mattone su mattone, vengono su le dighe e le città. Dove passiamo arriva una canzone, un po' d'amore e di felicità. Dove passiamo arriva una canzone, un po' d'amore e di felicità. Se uno di noi per soldi o per passione ha un conto aperto con la società, chi crepa in fondo ai pozzi di carbone salda quel conto con l'umanità, salda quel conto con l'umanità. Dopo una vita o dopo una stagione lasciamo dietro tutte le città, la neve, il freddo, il fumo ed il carbone, e verso il sole ognuno se ne va. La neve, il freddo, il fumo ed il carbone, e verso il sole ognuno se ne va. Quando in futuro con le spedizioni andremo sui pianeti a lavorare, ci pianteremo giardini di limoni e tutto il cielo si profumerà. Ci pianteremo